come in un film. Tu ancora a dirmi che poi cambierai. Sprechi il tuo tempo, sai, io vado via. Sembra incredibile, ma per me non esisti più. E parli e continui a cercare una scusa, ed ancora soltanto parole, ma non riesci a difenderti mai, mai. Non ti credo più. Fredda ed immobile, sarò con te. Credevi fossi io una bambola, ma debole e fragile, non sarò. Sembra inutile restare ancora qui. E parli e continui a cercare una scusa, ed ancora soltanto parole, ma non riesci a difenderti mai. Se mi ami veramente tu, non chiamarmi più, non cercarmi. Quando io parlo non senti, di errori ne fatti sai tanti, non posso fidarmi di te.